Yenshai fantasmi conti reumatismi, Yenshai vampiri senza denti, le sciala noc con tel ma de crapa che la va a dormi tra da giuns lag. Yenshai barboni con la faccia strascia e i cartoni per quattasse il cu anti-raff, tu ci so ricordi e jan brusa per scoldassi man. Yenshai taxisti con la faccia gialda, ehi caramba con la faccia bla, Yenshai solda con la giacca verda, vantucci in sé ma resi gai tusan. Le ruha dalla noce con la sua bottiglia rotta, la sua ombrella scavezzata e l'ombria senza i vestiti. Esce la mummia con la pancera e l'arcangel con la fregiù, esce la stria in sulla muturetta, esce anche al diavolo a pagare beef. Yenshai playboy senza gna una donna, Yenshan kai don kun shadu ma un bucer, an fa amicizia in su na panda Sisley, dal finestre le gula fe un culto. Yenshan kai ladri e gli assassin, i vagabondi e i fede go, ma per stasera i varden su la luna, le me alla sera per cupao crepa, no no. Le ruha dalla noce, negra come un coperto, sigaretta smurzata entrata là sotto il lampione. Thank you.